Savonarola, il frate che scongiurò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che conobbe una Russia in cui il comunismo era solo una bella utopia e che, considerando inutile l'Alaska, la vendette agli americani per pochi spiccioli, e lette da me che conosco una Russia in cui il comunismo è solo un brutto ricordo e che, considerando l'Alaska di importanza vitale, la ricomprerebbe dagli americani a qualunque costo. D'altra parte, beata quella città che ha principe che sa e freddo e fame fan brutto pelame. Serio. Capitolo 22. Baiasetto e i suoi fratelli. Le cose d'Italia ricevevano nuova alterazione e con esse mutavano grandemente le condizioni della Repubblica e del Savonarola. Nel principio dell'anno la fortuna di Francia aveva sempre maravigliosamente prosperato. Il re Carlo era giunto a Napoli senza incontrare al suo cammino ostacolo di sorte alcuna, gli aragonesi erano fuggiti, il nuovo dominio s'era stabilito come per incanto. Ma ben presto le cose precipitarono al fondo con quella medesima rapidità con cui erano salite in alto. In brevissimo tempo i francesi avevano trovato il modo di scontentare ugualmente tutti i governi e tutti i popoli d'Italia. La loro condotta verso i fiorentini non potrebbe essere condannata con parole abbastanza severe. Essi non facevano altro che chiedere danari, dando sempre nuove promesse che non mantenevano mai. I napoletani ancora erano scontentissimi della loro insolenza e già agognavano il ritorno degli aragonesi. I governi erano atterriti dalla potenza di questo nuovo esercito che aveva corso vittorioso l'Italia da un capo all'altro, ma più di tutti era scontento quel medesimo Lodovico il Moro che lo aveva invitato a passare le Alpi. Egli vedeva con inquietudine grandissima l'esercito francese pieno di emigrati lombardi e genovesi, vedeva con terrore il suo nemico personale Gian Giacomo Trivulzi fra i primi generali e più accetti al re, e finalmente cresceva adesso la sua irritazione e il suo sospetto da che il re Carlo gli negava quel principato di Taranto che gli era stato nei patti della guerra promesso. Eccolo adunque nuovamente dominato dalla paura, darsi tutto a meditar nuove trame, ed egli che aveva chiamato la Francia ai danni d'Italia tentare ora di farsi capo d'una lega italiana per cacciare i barbari e riuscire. Il giorno 31 marzo 1495 la Lega era assegnata a Venezia. Vi pigliavano parte quella Repubblica, il Papa, l'Imperatore e il Re di Spagna. Il fine che si palesava era difendere la cristianità contro il turco, mantenere l'integrità dell'Italia e degli stati alleati, mettere in armi 34.000 cavalli e 24.000 fanti. Nel fatto però il sultano era stato uno di quelli che più avevano favorito la Lega e prometteva uomini e danari per aiutarla. Il suo vero scopo era di cacciare dall'Italia i francesi. Gli articoli segreti stipulavano che la Spagna avrebbe mandato un'armata navale per aiutare il re Ferdinando a riconquistare il regno. I veneziani avrebbero attaccato le coste dell'Adriatico. Il duca preso Asti e chiuso la via ai rinforzi francesi. L'imperatore e la Spagna assalirebbero per terra le frontiere francesi. Così in un momento il Moro riusciva a sollevare dappertutto armi contro la Francia. Queste cose non restavano ignote al re Carlo. L'accorto ambasciatore francese messer Filippo di Comines penetrava subito lo scopo della Lega ed il medesimo giorno che si concludeva egli ne scriveva a Napoli. Affrettavasi poi a partire per raggiungere il re, cui non restava altra via di salvezza che lasciare nel regno forti presidi e tentare col resto dell'esercito d'aprirsi una via per tornare in Francia. Nel suo viaggio l'ambasciatore prendeva la via di Toscana, dove era l'unico stato italiano che, respingendo tutte le offerte degli alleati e non curando le loro minacce, si manteneva ancora fedele a Carlo. Giunto a Firenze, il primo pensiero del Comines fu di andare a San Marco. Voleva conoscere da vicino il Savonarola e formarsi un concetto chiaro di quest'uomo che aveva saputo riempire il mondo della sua fama. E quello sperimentato conoscitore degli uomini uscì dalla cella del frate pieno d'un'ammirazione e d'una venerazione grandissima di cui nelle sue memorie parla continuamente. Egli credeva trovare un uomo singolare, ma trovò invece un uomo straordinario. La sua meraviglia cominciò subito, giacché lo intese discorrere di politica con una conoscenza grandissima delle cose. Egli mi parlò della grande assemblea che facevano i veneziani meglio di me che allora ne venivo. La sua vita era poi la più bella del mondo, come ognuno poteva vedere. Le sue prediche erano contro i vizi ed hanno introdotto il buon costume in Firenze. Io non voglio giudicare le sue rivelazioni, ma è certo che ha predetto a me e al re cose che niuno credeva e che si sono tutte verificate. Quanto al valersi, come dicevano i suoi nemici della confessione, per conoscere i segreti dello Stato, dirò che io lo credo un uomo buono e che gli ha rivelato cose che niuno dei fiorentini potrebbe mai avergli dette. E tanto tanta fu la fede che il Comine espose nel Savonarola, che i lo interrogava con istanza e con fiducia perché gli dicesse se il re sarebbe scampato dai pericoli che lo circondavano. Qui il frate prese un tuono solenne e cominciò a riandare la fede del re violata, le promesse mancate, i comandi di Dio disubbiditi, la grande opera della riforma d'Italia e della Chiesa abbandonata. Questi nuovi pericoli, così egli concludeva, sono precursori di un castigo assai maggiore da cui il re sarà flagellato se non torna all'obbedienza del Signore e alla buona via. Quanto al presente dovrà combattere molto, ma pure ne uscirà finalmente vittorioso. Dopo questo singolare colloquio, il Comines continuava subito il suo viaggio verso il regno. Il re Carlo era intanto già partito da Napoli il 20 maggio, lasciava forti presidi nel regno e menava seco tutto il resto dell'esercito sotto i comandi del Trivulzi, onde aprirsi col ferro una via per tornare in Francia. Entrato a Roma il di primo giugno, desiderava venire ad abboccamento col Papa, ma questi era il giorno innanzi fuggito alla volta d'Orvieto. Alessandro Borgia aveva molte ragioni per temere lo sdegno dei francesi. Egli li aveva dapprima invitati in Italia. Il danaro avuto poi dagli aragonesi gli aveva fatto voltar faccia. Venuta in auge, la fortuna francese si avvicinava di nuovo ad essi, ed ora non solamente diveniva un'altra volta loro nemico, ma uno degli autori principali della Lega. A tutto ciò si univa anche una storia assai singolare, propria del carattere di quei tempi e del Borgia. Quando i francesi passarono la prima volta per Roma, si trovava qui vi prigioniero il principe Gemme, fratello del gran sultano Bajazeto II. Esso era un giovane d'una fisionomia e d'un'indole tutta orientale, pieno d'ardire, onde aveva trovato molti partigiani e non senza qualche speranza di successo aveva conteso il trono a suo fratello. Costretto poi dall'avversa fortuna a fuggirsi nell'isola di Rodi, veniva fatto prigioniero dal gran maestro dell'ordine e da lui consegnato a Papa Innocenzo VIII. Morto il quale, Gemme venne nelle mani di Alessandro Borgia, che ne faceva mercato. Il sultano infatti, temendo moltissimo una liberazione di suo fratello, pagava al papa 20.000 ducati annui per il suo mantenimento e più volte aveva offerto di dargliene 200.000 quando lo avesse ammazzato. Nel passare adunque i francesi da Roma, la prima cosa che il re Carlo domandava al papa era di portar seco Gemme, onde servirsene nella guerra che voleva fare al sultano. Alessandro Borgia, sebbene assai di malanimo, dovette pur cedere alla volontà del re ed ancora dovette mandare suo figlio Cesare, che fu poi il duca Valentino, a seguire il campo francese col nome e gli onori di ambasciatore, ma in verità come ostaggio contro la sempre mutabile politica del padre. A un tratto però si vide che Cesare era fuggito dal campo e subito dopo moriva inaspettatamente il giovane Gemme. Dissero alcuni che il papa lo aveva dato nelle mani del re già avvelenato, assicuravano altri che gli aveva fatto somministrare il veleno per mezzo del figlio. Comunque sia di ciò è certo che il sultano mandò subito i 200.000 ducati promessi più la veste in consutile di Cristo, ma i suoi inviati furono presso a Sinigaglia fatti svaligiare da Giovanni della Rovere. Tali erano allora i tempi e tali gli uomini. Malgrado tutte queste cagioni di risentimento, il re Carlo, non potendo fermarsi a Roma né pensare allora a vendette, continuava il suo viaggio e il 13 giugno entrava in Siena. Non è credibile come questa nuova sollevasse gli animi fiorentini e quanto il re fosse ormai divenuto esoso a quella repubblica. Essa rimaneva ancora ferma nella sua alleanza, ma non gli poteva perdonare la fede violata, i patti traditi e l'aver aiutato e sostenuto i pisani nella loro sollevazione. Non aveva il re fatto altro che chiedere sempre nuovi danari, promettendo continuamente di rendere le fortezze e di far sottomettere Pisa, ma nell'una cosa nell'altra aveva poi mantenuta, e per queste ragioni i fiorentini, malgrado ogni loro sforzo, si erano trovati in condizioni sempre peggiori. Essi avevano mandato la loro più ardita gioventù a combattere sotto il comando di Piero Capponi, avevano assoldato Ercole Bentivoglio e altri capitani, ma i pisani ricevevano da Genova, da Siena, da Milano e perfino dallo stesso re Carlo nuovi aiuti. Quando gli ambasciatori fiorentini rammentarono a quel re le promesse da lui fatte, egli aveva risposto: «Ma che posso fare se i vostri signori scontentano tutti i loro sudditi?» E poi mandava ai pisani ben 600 dei suoi fanti svizzeri e guasconi, che erano loro d'un grandissimo aiuto nella guerra. Così la ribellione veniva incoraggiata su tutto il territorio fiorentino e Montepulciano si dava ora, 26 maggio, ai sanesi, che subito vi mandavano un presidio. In tale stato di cose si avvicinava il re Carlo e quasi tutto questo non fosse ancora cagione bastevole di malcontento, egli menava seco Piero dei Medici. Non appena ne giunse la nuova in città che tutti corsero furiosamente alle armi e fu cosa meravigliosa a vedere, dice lo storico Jacopo Nardi, in quanto poco tempo si fossero armati uomini e fanciulli e come i privati cittadini facessero a gara con i commissari della signoria per riempire la città di vettovaglie e di armi. Nei borghi vennero in brevissimo tempo raccolti 11.000 fanti di corazza, nelle case ognuno aveva raccolto amici e familiari, provveduto le torri di sassi, sbarrato le porte. Molte vie furono asserragliate e i gonfalonieri delle compagnie percorrevano di notte la città perché non si volle in questa occasione permettere ad alcun fante forestiero di entrarvi. E tutto ciò era provveduto da quei piagnoni che gli arrabbiati dicevano buoni solo a borbottare Ave Marie. Essi non tralasciarono, è vero, gli uffici divini, fecero pubbliche orazioni, molte limosine e portarono in solenne processione la Madonna dell'Impruneta. Ma quelli che più erano caldi in questi uffici divini più erano pronti a pigliare le armi. E il Savonarola, che si trovava allora a continuare le prediche delle feste sopra i salmi, gridava dal Pergamo: fate orazione, ma non tralasciate i provvedimenti umani. Bisogna aiutarsi in ogni modo, con tutti i mezzi, che allora il Signore sarà con voi. Animo, fratelli, e soprattutto unione. Se voi starete uniti e concordi in un solo volere, sia pure tutto il mondo contro di noi, la vittoria sarà nostra. Non vi spaventate di queste cose, perché noi siamo appena al principio del gioco. Voi vi troverete in tempi terribili, voi vedrete nemici da tutte le parti, voi udirete: eccoli a Roma, eccoli da quella parte, eccoli da questa, eccoli, son qui. E allora, o povera Firenze, o povera Italia, unione adunque fra voi, unione nel Signore, perché la vittoria deve essere infine dei buoni.